Il Sole 24 Ore. G20 senza vinti e senza vincitori, Draghi è solo l'inizio della svolta. Infrenata il PIL italiano, la finanziaria varrà 5,7 miliardi più soldi per la scuola paritaria. Governo Cecchito rilancia, dopo la manovra voto sulla fiducia, La Russa pronti ad allargare la maggioranza. Porte chiuse la cultura, la protesta in tutta Italia per chiedere più attenzione e più fondi. Buongiorno dalla redazione, ancora una buona giornata da Anna Migliorati. Non ci si aspettavano grandi risultati, il G20 di Seul è stato tutto sommato in linea con le attese, qualche passo avanti ma resta la guerra delle valute. Si attendevano però valutazioni importanti per la crisi, allora andiamo subito dall'inviato a Seul, Alessandro Merli, buongiorno. Buongiorno, il G20 di Seul ha fatto solo un mezzo passo avanti, una vera intesa di fondo su cosa fare per mettere fine alla guerra delle valute non c'era, quindi i capi di Stato e di Governo dei grandi paesi avanzati e delle grandi economie emergenti alla fine hanno puntato a una cosa sola, confermare il compromesso che era stato raggiunto faticosamente 3 settimane fa sempre qui in Corea dai loro ministri delle finanze, cioè tutti devono evitare svalutazioni competitive, i cambi devono muoversi sulla base delle indicazioni dei mercati e dei fondamentali delle economie. Di fatto sullo sfondo resta la spaccatura fra Stati Uniti e Cina. L'aggiunta più significativa, se così si può dire, del vertice di Seul è stata assegnare al Fondo Monetario il compito di elaborare una serie di indicatori e valutare le politiche economiche dei paesi, una sorta di check-up, però il Fondo non ha poi il potere di imporre delle sanzioni e quindi sarà lo stesso G20 nella prima metà dell'anno prossimo sotto la presidenza francese a giudicare se stesso. I progressi più significativi forse sono arrivati sul fronte delle regole della finanza, è stata approvata Basilea 3, il G20 ha dato il suo avallo politico al lavoro coordinato dal Financial Stability Board che è presieduto dal governatore della Banca d'Italia Mario Draghi, però sulle future crisi delle grandi banche ci sono ancora divisioni e quindi anche dopo Seul la soluzione resta in alto mare. A voi la linea. Grazie ad Alessandro Merli. Proprio ai microfoni Sky sentiamo il governatore di Banca Italia Mario Draghi. Ma effettivamente i leaders anche ieri sera a cena hanno riconosciuto che la parte finanziaria è l'area dove c'è stato maggior progresso nei mesi passati ed è un progresso che loro hanno sancito con la loro approvazione, è un progresso che si concretizza nel piano di lavoro dei mesi a venire per quel che riguarda le istituzioni che sono troppo grandi per fallire e per l'applicazione di Basilea 3. Ma non è il solo successo di questo vertice, il vertice ha affrontato dei temi molto complicati, dei temi complessi come quelli degli squilibri globali e ha iniziato un percorso, il fatto che non si siano ancora visti dei risultati non vuol dire che questi risultati non verranno, è iniziato un percorso su una materia straordinariamente difficile ma vitale per l'economia mondiale. E intanto oggi sono arrivati anche dati che fotografano la situazione italiana. Rallenta la crescita in Italia. Secondo le stime Istat il PIL è salito dello 0,2% nel terzo trimestre. Frena anche l'Europa, ma l'Italia è sotto la media dell'Eurozona, più 0,4%, e ancora staccata da Francia e Germania. Il debito pubblico a settembre ha segnato un nuovo record, a 1.844 miliardi, e le entrate tributarie sono scese dell'1,7% in 9 mesi. Il Tesoro ha collocato oggi senza grandi difficoltà i BTP a 5 anni, ma paga interessi molto più cari, al 3,24%. Professor Tito Boeri, c'è di che essere preoccupati? Sono arrivati in effetti una serie di brutte notizie. Quelle sulla crescita erano in gran parte previste. I dati nuovi riguardano invece i conti pubblici e qui qualche elemento di preoccupazione in effetti c'è. Il maxiemendamento che è stato depositato alla Camera contiene delle spese aggiuntive in più di quelle che erano state sin qui preventivate e ha delle coperture temporanee. Rischiamo di rinviare probabilmente quella che sarà a questo punto la legislatura futura degli interventi correttivi, quindi si lascia un'eredità pesante alla legislatura che verrà. Giovanni Bracco da Radio Corpo e Radio 24, Il Sole 24 Ore, Roma. E intanto come vanno le borse? Vi avevamo promesso nell'edizione delle 12 un aggiornamento, è ancora con noi Deborah Rosciani. Allora Anna, qua c'è una volatilità che sta letteralmente imperversando, quindi investitori che appaiono tutto sommato anche piuttosto indecisi, perché prima si preoccupano enormemente della crisi irlandese e poi riescono ad accantonarla nel giro di 2 ore. Stamattina la giornata era partita malissimo per i listini del vecchio continente. Milano è arrivata a perdere in avvio alle 9 il 2,20% sul FTSE MIB. Non solo ha recuperato tutto, adesso è positiva per lo 0,17%, mentre sono ancora deboli le altre piazze del vecchio continente, per cui volatilità ai massimi, stanno recuperando tutti i titoli del settore bancario e addirittura l'euro sul dollaro si sta riportando di nuovo sulla soglia di 1,37, quindi massima allerta, ma comunque le banche tirano dopo i giorni scorsi un sospiro di sollievo. E grazie a Deborah Rosciani. Intanto in questo quadro in Italia si lavora alla finanziaria, tra l'incertezza politica, di questo parliamo tra pochissimo, c'è una notizia dell'ultima ora, ve la leggo così come appena arrivata in redazione. Misseri colpito da crisi cardiaca, riguarda naturalmente la vicenda della morte di Sara Scazia da Vetrana, il principale indagato in carcere con la figlia, sottoposto a terapia d'urgenza, così battono in questi istanti le agenzie, vi daremo aggiornamenti se ci saranno. Ma dicevamo, in Italia si lavora in questo quadro alla finanziaria, i dati economici cominciano ad emergere, qualche numero in più questa mattina sulla manovra arriva. Vincenzo Miglietta, buongiorno. Sì, buongiorno. È così, con il passare delle ore si definiscono impatti e contenuti del maxi emendamento del governo finalizzato ad incentivare lo sviluppo. Dagli ultimi documenti presentati dal Tesoro si evince che il provvedimento vale 5,7 miliardi di euro. I tecnici della Camera esprimono intanto dubbi sul fronte delle coperture, in particolare sotto la lente di ingrandimento vi sarebbero le entrate una tantum, a partire da quelle previste dall'asta delle frequenze. Viene criticato il fatto che con questo tipo di risorse si vadano a coprire spese o minori entrate di carattere ordinario. Tra le novità delle ultime ore segnaliamo i 245 milioni per le scuole paritarie, che mantengono così il budget dello scorso anno, 100 milioni sono per il 5 per 1000, altri 30 milioni oltre ai 60 già stanziati arrivano per il sostegno all'editoria e 375 vengono destinati alla partecipazione dell'Italia agli organismi internazionali. Ricordiamo il miliardo a favore dell'università, cifra questa, commenta il ministro Gelmini, sufficiente per far fronte alle spese ordinarie, al piano di assunzione triennale per i ricercatori e per garantire il diritto allo studio. Si allenta infine il patto di stabilità per gli enti locali per circa 1,2 miliardi, non è sufficiente, dicono tuttavia regioni e comuni che chiedono al governo un incontro urgente. E da Roma è tutto. Grazie a Vincenzo Miglietta. Sentivamo più fondi alle scuole paritarie, soddisfatta Maria Grazia Colombo, presidente dell'Associazione Scuole Cattoliche, secondo cui un taglio alla scuola paritaria sarebbe stato un suicidio per le finanze italiane. Perché? Perché, dice, avrebbe riportato alla scuola statale molti alunni con costi maggiori e, dice, bisogna tagliare sì, ma gli sprechi. Sentiamola al microfono di Maria Piera Ceci. Allora, io ho lanciato un appello ai genitori di scuola statale, andiamo a vedere insieme come vengono spesi i soldi nella scuola statale, questo secondo me è quello che un governo attento deve fare, non ci basterebbe molto meno di quanto viene erogato per le scuole statali, tanto abbiamo dimostrato che le scuole paritarie sanno gestire i fondi in modo molto più oculato, mi spiace dirlo, io non creo mai contrapposizione perché sono anche genitore di scuola statale, purtroppo però a questo punto non è giusto che stiamo male tutti, andiamo a vedere dove effettivamente, come i soldi, per cui un discorso di impiego adeguato delle risorse. Certo, non è compito dell'AGESC, è compito di un governo. E c'è chi protesta, musei, biblioteche, siti archeologici e luoghi della cultura chiudono i battenti contro i tagli. L'iniziativa intitolata Porte chiuse, luci accese sulla cultura è promossa da Federculture, dall'ANCI, l'Associazione Nazionale Comuni Italiani, con il sostegno del FAI. Il critico d'arte Achille Bonito Oliva, al microfono di Adriana Fracchia. La cultura, le mostre, le esposizioni, gli eventi culturali producono anche degli indotti economici, ma a parte questo la cultura non serve per sopravvivere ma per vivere, per farci riflettere, per farci conoscere. L'arte scavalca il presente e cavalca il futuro, l'arte ci indica delle prospettive in un momento storico in cui sembra che il presente segni il passo. Dunque va detto che è una manifestazione di estrema civiltà, di buonsenso, che non va diciamo, in qualche modo né letta da sinistra e nemmeno da destra. Dunque è veramente una chiamata alle armi di tutte le persone più consapevoli. Una chiamata alle armi di cui noi torneremo a parlare, come già vi abbiamo annunciato, uno speciale per Italia in controluce alle 13.30. Questi i numeri, queste le cifre, questo quello su cui si sta lavorando per la finanziaria, ma su questo pesano naturalmente le incertezze politiche. Allora a questo veniamo. Il premier Berlusconi è di ritorno dal G20 di Seul. Lunedì i finiani hanno annunciato che ritireranno la propria delegazione dal governo. La prossima sarà la settimana cruciale, ma con quali attese? Lo chiediamo ad Andrea Viali. Buongiorno. Buongiorno Anna. Sulla crisi nel centrodestra stamattina è tornato il capogruppo del PDL alla Camera, Cicchitto, per dire che il chiarimento all'interno della maggioranza avverrà in Parlamento dopo l'approvazione della finanziaria. Se il governo non avrà i numeri per andare avanti si dovrà tornare alle urne, ha ripetuto Cicchitto, ma sentiamolo. Faremo una verifica parlamentare sia al Senato e poi alla Camera, si vedrà qual è l'orientamento della maggioranza dei deputati e dei senatori. Se questo orientamento è favorevole al governo si andrà avanti, qualora invece ci sia un atteggiamento diverso, per noi a quel punto l'unico sbocco democratico possibile è quello del ritornare davanti al corpo elettorale. Ecco, sempre dal PDL però oggi è intervenuto anche la Russia per il ministro della difesa. Il governo è intenzionato a proseguire l'impegno assunto con gli elettori e cercherà di perseguirlo in tutti i modi, anche allargando la maggioranza, ha detto la Russia, quindi una posizione la sua diversa da quella di Cicchitto. Tutto questo, lo ricordiamo, avviene all'indomani del confronto fra Bossi e Fini, un tentativo di mediazione da parte del leader leghista che si è risolto, come sappiamo, con un nulla di fatto. Nell'incontro era stata valutata anche l'ipotesi di un reincarico al premier, ma da Seul Berlusconi ha fatto sapere che non ha intenzione di dimettersi e che se Fini vuole sfiduciarlo dovrà farlo in Parlamento. I finali a quel punto hanno quindi ribadito che senza un passo indietro di Berlusconi lunedì usciranno dal governo. Per ora da Montecitorio è tutto. Grazie ad Andrea Viali. E noi allora questa mattina siamo andati proprio a sentire cosa pensano i finiani. La posizione di Futuro e Libertà è quella di chi resta in attesa, annunciando sì una mossa, ma non quella decisiva. La deputata Flavia Perina la riassume così. Stiamo aspettando il rientro del Presidente del Consiglio da questa missione internazionale, una risposta formale che a questo punto francamente sembra delineata. Lunedì, se le cose andranno come sembra che vadano, si ritirerà la delegazione ministeriale di Futuro e Libertà, dopodiché immaginiamo appunto che si apre il percorso di una crisi. Oltre lunedì la previsione non va, ma la Perina avanza dei dubbi sulla tenuta del resto della maggioranza. Non so quanta parte del PDL sia disposta a seguire Silvio Berlusconi in una battaglia all'arma bianca, non so che ruolo eserciterà la Lega nelle prossime settimane, che ha degli interessi importanti in ballo, a cominciare dal federalismo. Sarà per questo che Berlusconi vorrebbe chiedere la fiducia al Senato, una scelta in apparenza priva di pericoli, visto che il Cavaliere potrebbe cavarsela anche senza il voto di Futuro e Libertà, ma che secondo l'onorevole Aldo Di Biagio nasconde delle insidie. Ho la sensazione che insomma anche lì ci sarà sicuramente qualcuno che, pur di rimanere attaccato alla poltrona, farà in modo che questa situazione si risolva prima possibile. E quei nomi, Tremonti o Maroni, che sembra siano usciti dalla bocca di Fini, proprio adatti a guidare un dopo Berlusconi, ancora Di Biagio. Perché no, entrambi in questo momento potrebbero andare bene per il bene del paese. Per il momento però meglio mantenere un basso profilo e sottolineare il senso di responsabilità sulla manovra, come afferma Adolfo Urso. Non è di ritirare la delegazione, stop. Comunque in ogni caso ovviamente la legge finanziaria va approvata, perché il paese ha bisogno di una legge finanziaria. Valeria De Rosa, Radio 24. Il Sole 24 Ore. Settimana che un appuntamento politico ce l'ha anche in TV. Il presidente della Camera Gianfranco Fini e il segretario del PD Pierluigi Bersani hanno accettato l'invito di Fabio Fazzi e Roberto Saviano per la trasmissione Vieni via con me. 13:18 minuti, le notizie di oggi di GR24, Birmania in attesa, forse già oggi libera Aung San Suu Kyi. In frenata il PIL italiano, ma resta consolidata la crescita di un punto per l'anno, la finanziaria varrà 5,7 miliardi più soldi per la scuola paritaria. Governo Cicchitto rilancia, dopo la manovra voto sulla fiducia, la Russa pronti ad allargare la maggioranza. I calciatori confermano lo sciopero, fino a novembre si saprà la data dello stop. Andiamo dunque in Birmania. C'è attesa e annunciato per oggi il rilascio di Aung San Suu Kyi dopo 7 anni ininterrotti di arresti domiciliari. I termini della sua detenzione scadono domani, ma la premio Nobel per la pace, 65 anni, di cui 15 degli ultimi 21 passati in detenzione, potrebbe essere liberata già oggi, forse a breve. Secondo alcune fonti birmane, anzi, sarebbe già libera, ma conferme ufficiali al momento non ce ne sono. Naturalmente ve lo racconteremo appena ci saranno. Intanto torniamo invece alle questioni italiane. La gestione dei danni per calamità naturali causa un aggravio sul bilancio dello Stato di circa 3,5 miliardi di euro all'anno. L'alluvione in Veneto ha provocato danni stimati di almeno 1 miliardo. Il terremoto in Abruzzo avrà un costo di 14,7 miliardi. Sono i dati di un'indagine realizzata da Cineas, consorzio universitario specializzato nella gestione del rischio. Emergenza che riguarda in queste ore invece il Salernitano. L'acqua è garantita all'ospedale e al carcere, gli altri dovranno portare pazienza. Autobotti e bottiglie sopperiscono alle prime necessità, dalla Puglia arriveranno buste d'acqua da 5 litri, ma come si farà a resistere fino a Natale, quando secondo Bertolaso la falla sarà riparata? Noi in città, ci dice Mariano Muccio, presidente della Salerno Sistemi, riusciremo a ottenere un'erogazione di 2 ore al giorno. Ma fuori come se la caveranno? In alcuni casi gli obiettivi da raggiungere sono garantire acqua per 2 ore al giorno, ma 2 volte alla settimana. E allora come si farà a riaprire le scuole, ad esempio? Nelle campagne, serre e campi distrutti, migliaia di animali morti, produzione di mozzarelle ferma. Cosa manca? Chiediamo all'assessore regionale all'agricoltura, Vito Amendolare. Fieno per gli animali, perché purtroppo parecchi fienili sono allagati. Suona strano, ma dà la misura del dramma. Laura Bettini, Radio 24 e Sole 24 Ore. E a Pompei, alla Scuola dei Gladiatori, saremo in grado di restaurare. Gli affreschi sono intatti. Il crollo riguarda il tetto di cemento realizzato nel dopoguerra, ha ribadito oggi il ministro per i beni culturali Sandro Bondi. Noi, Pompei e le sue emergenze, continuiamo però a raccontarvele. La nostra inviata Raffaella Calandra ha sentito l'ex soprintendente di Pompei, Pietro Giovanni Guzzo. La Scuola Armadurarum nel 2006 risultava in grado di conservazione mediocre, cioè è il terzo livello di rischio, il primo è il più grave, il secondo meno grave, il terzo mediocre e il quarto in condizioni discrete. Quindi vuol dire che avevate già segnalato la necessità di un intervento che, a quanto le consti, era stato fatto oppure no? Dal 2006 ci sono stati dei tagli alle disponibilità finanziarie della soprintendenza, quindi tutti quanti i programmi di lavoro e di manutenzione si sono di conseguenza rallentati. Quando io sono andato via nel 2009 non era in programma, per scarsità finanziaria, interventi in quella zona, anche perché quella zona fino allora non aveva segnato problemi che sono iniziati a cominciare al gennaio del 2010 con il crollo della casa di del muro della casa di Castiamanti. Appunto, a questa mappa sua dei rischi di Pompei, cosa ha fatto seguito? Dal 1997, quando si è iniziata questa recensione del pericolo e del rischio, delle gerarchie di rischio, si sono programmati interventi in base a queste priorità di pericolo, tant'è vero che dal 97 al 2009 abbiamo riportato in sicurezza più del doppio dell'area che era in sicurezza nel 97. Allora solo il 14% dell'area dei 44 ettari dell'antica Pompei rimessi in luce era in condizioni di sicurezza. Nel 2009 arrivavamo al 31%. È anche vero che poi dopo il monitoraggio è fermo al suo, alla sua mappatura, quindi cioè Pompei avrebbe bisogno di un monitoraggio aggiornato di frequente? Beh, il monitoraggio per definizione è continuo, dovrebbe essere. E di fatto invece è fermo alla sua mappatura? Appunto, ma il crollo di gennaio del muro della casa di Castiamanti doveva essere un campanello d'allarme per dire che la situazione, che fino ad allora era relativamente tranquilla in quel settore di Pompei, si era modificata. E noi siamo alla cronaca giudiziaria. L'ex sindaco di Palermo Vito Ciancimino incontrò l'allora imprenditore Silvio Berlusconi in tre occasioni a Milano, a due colloqui. Partecipò anche Epifania Scardino, moglie del politico corleonese. A confermarlo ai PM di Palermo durante un interrogatorio questa mattina lei stessa, la donna non aveva mai rivelato questi fatti. È previsto per oggi pomeriggio un presidio di genitori che difendono le maestre indagate dell'asilo di Pinerolo, sequestrato per maltrattamenti. La procura promette intanto indagini in tempi brevi. Sarà chiusa in tempi rapidi l'inchiesta sui bimbi maltrattati all'interno dell'asilo nido di Pinerolo nel Torinese. Lo ha detto il procuratore capo di Pinerolo, Giuseppe Amato. Le tre maestre denunciate per maltrattamenti ai bambini dell'asilo, il Paese delle Meraviglie, hanno 36, 33 e 28 anni. Le storie documentate in numerosi video girati da una ex bidella le ritraggono mentre compiono gesti orrendi sui bambini. Picchiati, costretti a mangiare il cibo vomitato, insultati con parolacce, minacciati, messi in castigo in luoghi piccoli e bui, sotto un lavandino di un bagno, dentro un caminetto, lasciati per ora a piangere senza alcuna consolazione. A far partire l'inchiesta, la denuncia di una madre che aveva visto la bimba picchiare ripetutamente una bambola. Il MOIGE, il Movimento Genitori, ha già detto di essere pronto a costituirsi parte civile nel processo contro i responsabili della struttura di Pinerolo se le indagini confermeranno le accuse. Non solo, si comincia a fare compatto un gruppo trasversale dal MOIGE alla classe politica che chiede che all'interno degli asili pubblici e privati vengano inserite le telecamere. Cristina Carpinelli, Radio 24, Il Sole 24 Ore. E ora l'economia italiana che prova a ripartire. Venti di ripresa. L'Italia che riparte. Il fatturato di Making Energy nel 2010 rispetto al 2009 presenta una crescita del 167%. A poter vantare questo balzo è Andrea Brugnac, direttore commerciale di Making Energy, azienda di Torino che realizza impianti fotovoltaici di taglia industriale. L'azienda, 24 dipendenti, nasce dalle ceneri della filiale italiana di una multinazionale olandese. La casa madre è andata in bancarotta nel 2009 e tre dipendenti, con l'aiuto di un fondo italiano, hanno acquistato la società. Ecco come si è arrivati all'ottimo risultato del 2010. Ancora Brugnac. Questo grazie sicuramente alla forte attività commerciale svolta sul territorio nazionale e anche al fatto che il conto energia, e quindi l'incentivo dedicato all'energia fotovoltaica, nel 2010 vede uno degli ultimi anni dell'attuale conto energia, perché dal 2011 questo incentivo scenderà notevolmente. Sicuramente il mercato ci ha premiato per quella che era la competenza, la serietà e la professionalità che l'azienda fin dal 2005 aveva dimostrato sul territorio nazionale. Alessandra Tedesco, Radio 24, Il Sole 24 Ore. E siamo allo sport. Nessun passo avanti. I calciatori vogliono lo sciopero. Lo hanno ribadito questa mattina. Attenderanno fino al 30 novembre, poi decideranno la data dell'astensione, che potrebbe essere già il primo turno successivo. Delusione intanto è Mondiale di scherma di Parigi. La squadra azzurra della spada femminile, campione del mondo uscente, a sorpresa si ferma agli ottavi. Le ragazze azzurre sono state sconfitte dall'Estonia. E ora parliamo di cinema. Arriva oggi nelle sale Noi credevamo di Mario Martone, con polemica per il numero di copie, solo 30 per un film costato oltre 6 milioni di euro. Martone al microfono di Marta Cagnola. Chiaro che un film del genere ha bisogno di essere visto perché non fallisca la sua missione. Naturalmente ci sono molti rapporti che lo spettatore può cogliere con il nostro presente. Da sottolineare però che questi rapporti è lo spettatore che è invitato a cogliere. Insomma, il film è costruito rigorosamente su materiali storici e non strizza l'occhio all'attualità. Ci fermiamo qui per questa edizione di GR24 in regia Roberto Scaltritti. Ancora un saluto da Anna Migliorati. Italia in Controluce, edizione speciale con GR24. Ci risentiamo alle 14. GR24, Il Sole 24 Ore. Direttore Fabio Tamburini.